Facciamo la nostra meditazione nella sera della Domenica della Divina Misericordia. Poco fa stavo pensando che questa meditazione avveniva nella stessa ora in cui Gesù appare a Tommaso, poi dopo però sono andato a controllare, bisogna sempre controllare sul Vangelo, e invece il Vangelo non dice l'ora di quel secondo incontro con Tommaso, di quella seconda apparizione nel Cenacolo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso, quindi non dice che avviene alla sera, mentre sicuramente avviene alla sera del giorno di Pasqua, del giorno della Resurrezione, il primo incontro di Gesù con i suoi discepoli nel Cenacolo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Allora, in effetti, oggi nella messa abbiamo riletto questo Vangelo e io ancora una volta mi sono rallegrato di una piccola cosa, del fatto che in questo giorno della Divina Misericordia, in cui noi ricordiamo, anche se questo Vangelo si è sempre letto, anche quando prima che il Papa Giovanni Paolo II la definisse come il giorno della Divina Misericordia, secondo la richiesta esplicita di Gesù a Santa Faustina, e quindi era già in qualche modo questa domenica orientata, no, alla Divina Misericordia nei testi della liturgia e nel testo del Vangelo, mi sono di nuovo rallegrato del fatto che nella Messa si rilegga anche il Vangelo della Pasqua, cioè perché sono in collegamento, no? Quindi si legge l'apparizione di Gesù la sera di Pasqua nel Cenacolo e poi 8 giorni dopo, no? È ovvio che così si legge meglio anche il Vangelo, che è proprio del giorno di oggi, no? L'apparizione ai discepoli e insieme a Tommaso. Ma rileggendola insieme oggi durante la Messa, a me è sembrato di cogliere, come accade a volte, no? Durante la Messa, quando le letture si leggono nella liturgia, a me succede, e sono sicuro che succede anche ad altri, che assumono un po' una luce nuova, no? Che ci può essere una grazia in più che il Signore dà per comprenderle. A me è sembrato di cogliere un collegamento tra la prima e la seconda apparizione di Gesù, tra quella della sera di Pasqua e 8 giorni dopo, che forse in altre occasioni mi era sfuggito. Comunque, rileggiamo il Vangelo e poi così vi dico quello che ho pensato. Detto questo, mostro a loro, questa siamo ancora la sera di Pasqua, dopo il pace a voi, il saluto, no? Shalom, no? E il saluto anche abituale che c'era tra loro, anche se nelle parole di Gesù hanno un significato particolare. Detto questo, mostro a loro le mani e il fianco. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. E ecco, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E possiamo dire che il Padre ha mandato il Figlio proprio perché noi potessimo ricevere il perdono dei peccati. È il motivo profondo, no? Più importante dell'incarnazione. Gesù si è incarnato proprio per questo motivo, no? Per una riconciliazione di tutti noi con il Padre. Questo dice già l'angelo a Giuseppe, no? E nell'annuncio della nascita. E quindi tu, Gesù, sei venuto, ecco, a perdonare i peccati, e di fatto nel Vangelo i tuoi discepoli lo sanno, hanno assistito a diversi episodi in cui tu esplicitamente perdoni i peccati, ancora prima che avvenga questo, tu hai la possibilità di farlo. Sei Dio fatto uomo, no? E quindi solo Dio può perdonare i peccati, no? Protestano quei farisei quando sentono che tu perdoni i peccati al paralitico che ti hanno fatto scendere dal tetto, no? E ti sei trovato lì davanti. E poi per fargli vedere che tu sei in grado di fare questo, gli hai detto di alzarsi, di camminare, di prendere con sé il suo lettuccio e di tornare a casa sua. E hanno visto come hai perdonato quella donna peccatrice nella casa di Simone il fariseo, e le sono perdonati i suoi molti peccati perché molto ha amato, no? E così come il Padre ha mandato me per perdonare i peccati, io mando voi. Quindi sappiamo che in questo momento, che come una sorta di prima Pentecoste, Gesù soffia lo Spirito Santo sugli apostoli e gli dà questo potere, questo perdono. Li ha già, possiamo dire così, con parole nostre, no, della tradizione della Chiesa, li ha già ordinati sacerdoti, no? E vescovi, quando li ha resi capaci di fare in memoria sua l'Eucaristia nell'ultima cena. E adesso gli dà questo potere del perdono dei peccati da parte di Dio, cioè come il Padre ha mandato me, io mando voi. E l'Apostolo, e la parola Apostolo traduce una parola ebraica che significa colui che aveva anche proprio, che poteva da parte di colui che lo mandava, aveva tutti i poteri, come se fosse la stessa persona che lo mandava, per esempio fare un contratto di compravendita, stipulare un trattato di pace, ha tutti i poteri di colui che lo manda. Ecco, questo è l'Apostolo per Gesù. Quindi sappiamo che questo è detto in modo particolare ai dodici, e quindi è il potere che ha la Chiesa in queste persone che sono scelte da Dio tra gli uomini per essere sacerdoti. Però ciascuno di noi può pensare anche che, siccome la Pasqua ci ricorda che ciascuno di noi è un altro Cristo, lo stesso Cristo, che Gesù abita in noi, che questo è forse uno dei motivi che ci può aiutare a capire perché non lo riconoscevano, no, gli apostoli, e pensavano che fosse Maria, pensava che quell'uomo fosse il custode del giardino, e i due di Emmaus pensavano che fosse un qualunque viandante, e poi ecco, questo misterioso non riconoscere Gesù può essere interpretato, come sentii dire una volta e mi colpì molto, come il fatto che Gesù vuole essere presente nei suoi figli, nei suoi fratelli, nelle sue sorelle. Quindi Gesù è presente in noi, quindi anche noi siamo mandati, anche uno che non è sacerdote è mandato da Cristo in mezzo al mondo per perdonare i peccati. Non avrà il valore, no, del perdono di Dio che solo il sacerdote può avere, però avrà il valore quando un cristiano perdona, avrà il valore della presenza di Cristo che salva. Pensate al diacono Stefano che per primo, raccontano gli Atti degli Apostoli, dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, cioè imita proprio Gesù nei confronti di coloro che gli stanno togliendo la vita con la lapidazione. E tra questi c'è Saulo, e questo gesto del perdono di Stefano possiamo pensare che provoca alla lunga, ecco, ottiene da Dio la grazia perché Saulo si converte e diventi un apostolo delle genti, no? L'apostolo forse più grande che la Chiesa ha avuto. Quindi noi siamo chiamati da Gesù ad offrire il perdono di coloro che ci offendono, di coloro che non ci comprendono, di coloro che non ci capiscono, di coloro che ci fanno qualunque tipo di offesa. o di sgarbo, piccolo o grande, e sappiamo che non è facile, no? Non è per niente facile, ma è forse uno dei momenti in cui l'essere cristiano si manifesta di più. Comunque andiamo avanti. Dopo questo primo incontro con gli apostoli la sera di Pasqua, ecco, l'evangelista Giovanni dice, Tommaso racconta, ecco, che Tommaso non c'era. Uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore, vedete come, ecco, si dedicano anche a Lui e non lo abbandonano e cercano di incoraggiarlo. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Questo è il raccordo il racconto delle due apparizioni. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Noi non dobbiamo trascurare questo fatto che Gesù porta la pace, Gesù è il principe della pace, Gesù ci rasserena, no? Ci viene in mente e quella massima, ecco, ciò è quello che toglie la pace non viene da Dio, anche se il Signore può anche invece permettere un'inquietudine che ci porta alla conversione o che ci porta a renderci attenti ad una necessità di qualcuno, quindi insomma, queste frasi vanno prese per quello che valgono, sempre dobbiamo mettere la nostra prudenza, il nostro discernimento, no? Per comprendere quello che ci accade, ma molto spesso ciò che toglie la pace non viene da Dio, no? Viene piuttosto dal nemico di Dio, no? Che ci vuole inquietare. Comunque, torniamo a noi. Gesù dà la pace, poi disse a Tommaso, ecco, c'è Tommaso in mezzo a loro, e si rivolge subito a lui, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. E Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E qui si conclude la prima parte del Vangelo di San Giovanni, poi c'è l'aggiunta del capitolo 21 con la pesca miracolosa sul lago di Tiberiade. Ma ecco, allora vi dico quello che ho pensato come collegamento tra le due apparizioni di Gesù. Ho pensato che Gesù con Tommaso dà un'altra dimostrazione ai suoi discepoli, a tutti loro, quindi anche a Tommaso, a cui ha dato questa potestà di perdonare i peccati. Cioè, gli dice, è come se gli facesse vedere come deve avvenire questo perdono dei peccati. Gesù si avvicina a Tommaso che convive, diciamo così, con il suo peccato di incredulità, no? Perché rimane nell'incredulità e dice, guardate che se non lo vedo io non credo, quindi è proprio, ha fatto il proposito di rimanere, lui non è consapevole che sia peccato, cioè il Signore solo conosce il suo cuore. Però di fatto noi, astraendo, possiamo dire c'è questa mancanza in Tommaso, una mancanza di fede, no? Mancanza di fede, mancanza anche di fiducia nei suoi compagni, nei suoi fratelli, che gli assicurano che Gesù l'hanno visto, no? E pensate che in un altro Vangelo, nel Vangelo sia di Matteo che di Marco, c'è un accenno al fatto che i discepoli non hanno creduto e Gesù li rimprovera, no? Però poi li rimproverà, ma possiamo dire così, li perdona, tanto che poi subito dopo gli dà un comando apostolico, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, no? E convertite le nazioni. Quindi nonostante che li abbia trovati, anzi San Matteo dice addirittura qualcuno però ancora non credeva quando lui è apparso, no? A loro in Galilea. E in questo caso, nel Vangelo di Giovanni, Tommaso è ancora fermo nel suo peccato di incredulità. E Gesù va verso di lui, è un po' come vi ricordate la parabola della pecorella smarrita di San Luca, cioè, va verso di lui, no? Va a cercarlo, come è andato a cercare i due discepoli di Emmaus, e si adatta alla sua mentalità, si adatta, possiamo dire così, al suo peccato, cioè nel senso che lui dice: se non metto la mia mano, se non vedo il segno dei chiodi nelle sue mani, se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, non crederò. E Gesù gli dice: ecco, dai, metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco. E in quel momento accade che Tommaso dica: mio Signore, mio Dio, cioè è passato alla fede, e ha una fede molto grande, molto chiara, molto limpida, tanto che questo atto di fede, mio Signore, mio Dio, è un atto di fede di Tommaso che ha avuto tantissima fortuna nella Chiesa, anche nella devozione dei fedeli, a quante persone, non so, nel catechismo, quando eravamo bambini, ci insegnavano che potevamo utilizzare questa giaculatoria interiore, mio Signore, mio Dio, nei confronti della presenza di Gesù morto e risorto nell'Eucaristia, quando il sacerdote eleva la particola consacrata per la nostra fede, no? Per la nostra adorazione, o quando riceviamo appunto con l'Eucaristia la benedizione, o quando vogliamo, insomma, mio Signore, mio Dio, quando notiamo la presenza di Gesù nella nostra vita. Mio Signore, mio Dio. Quindi Tommaso è passato dall'incredulità alla fede attraverso l'incontro con Gesù. Questo è quello che Gesù fa vedere ai suoi discepoli, e questo è quello che accade quando i suoi discepoli passano il suo perdono. Pensiamo al sacramento appunto della confessione e della penitenza, quando noi chiediamo perdono al Signore e uno dei suoi discepoli, sacerdote o vescovo, o Papa, se abbiamo la fortuna di confessarci col Papa, ci dice, ti perdono. Ma in quel momento noi passiamo dall'essere peccatori dall'essere increduli ad essere credenti. E lo possiamo dire di ogni aspetto di virtù, da essere col cuore indurito ad avere il cuore grande e tenero, e dal non voler perdonare alla capacità di perdonare, dal non avere voglia di mettersi a servire gli altri a decidere di servire gli altri, dall'orgoglio ferito all'umiltà, e così via, no? E cioè in quel momento, nell'incontro con Gesù, quindi forse noi possiamo pensare che Gesù stia dicendo ai suoi: guardate che quando vi avvicinate ad un peccatore, il peccatore viene da voi per chiedere perdono. Non è detto che sia già totalmente pronto, perché è Dio che ci cambia, è la grazia di Dio che ci cambia. E così come gli sta dicendo ai suoi discepoli, a quelli a cui ha dato la possibilità di perdonare, gli sta dicendo: il vostro perdonare, siete veramente, sono io che perdono, e sono come quello che dice il catechismo, che a me piace tanto, no? Come forze, i sacramenti, no? Che escono dal corpo di Cristo, sono forze che escono dal corpo di Cristo e che sanano e che guariscono e che cambiano la vita delle persone. Per cui in questo caso è proprio Gesù glielo sta facendo vedere, come fa tante volte, poi lo Spirito Santo lungo i secoli continua a spiegarci le cose di Gesù. Continua a spiegarci le cose di Gesù. Forse loro, ho pensato che dopo queste due apparizioni del Signore, questi due stare con loro, questi due momenti, loro consapevoli di poter perdonare i peccati, magari gli è tornato in mente, gli sono tornati in mente tutti quegli episodi del Vangelo in cui Gesù parla di questo, no? E pensate alla parabola, questo è il Vangelo di San Luca, la parabola del padre dei due figli, la cosiddetta parabola del figlio del prodigo, no? Forse è una quell'abbraccio del padre verso il figlio che arriva è qualcosa di che sta nelle parole di Gesù, è qualcosa di simile a quello che accade tra Gesù e Tommaso. Cioè è un abbraccio che salva. Quel figlio aveva perso un po' la sua filiazione, tant'è vero che torna pensando adesso torno da mio padre, ma gli dirò ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Questo voleva dirgli, no? E invece, quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Cioè, Gesù gliel'aveva fatto vedere appunto col paralitico, con la donna e con tanti altri, no? Il perdono dei peccati, col cieco nato, va a non peccare più. Con questa parabola quasi descrive quello che poi fa con Tommaso. Non essere più incredulo ma credente. Questa parola dice: non dire che non sei figlio, sei ritrovato, sei tornato ad essere figlio mio. Nell'incontro del perdono con Dio Padre avviene questa trasformazione. Io penso che a noi aiuta a pensare che questo accade con noi quando incontriamo il perdono di Dio, ma ci aiuta a pensare che questo accade anche quando noi offriamo il nostro perdono di fratelli, di sorelle, nella fede, che quella persona torna a essere nostro fratello, nostra sorella, cioè si salda una frattura, si salda una distanza. E pensate, questa ho visto l'ultimo libro di Massimo Recalcati e l'ho trovato nella libreria di una stazione nei viaggi che ho fatto recentemente, e è pubblicato da poco, visto che è anche molto venduto, che si chiama Il segreto del figlio, da Edipo al figlio ritrovato. È un libro nel quale questo autore, che è esperto di psicanalisi, rivede sia la parabola di Edipo Re e poi la mette un po' in parallelismo con questa parabola del figlio ritrovato. E allora poi magari vediamo se ci abbiamo tempo e vi leggo qualche frase che mi ha colpito di questo libro, ma in realtà il solo pensiero, ecco, che questa parabola abbia avuto così un'attenzione importante, perché poi questo libro, visto che insomma è stato venduto parecchio in questi giorni, mi ha fatto immediatamente, riflettendo su questa dimensione del perdono delle feste pasquali, è Gesù che dice vi do la possibilità di perdonare i peccati, mi ha fatto tornare in mente una cosa che anche nel passato, secondo me, mi era sfuggita, che in questo racconto di Gesù del Vangelo di San Luca, in realtà abbiamo un altro esempio del fatto che Dio, come dire, nel perdonare il peccato lo, mi viene da dire quasi lo minimizza, che non è giusto, no? Però voglio dire, non ci si sofferma su tanto. Per esempio, questo è quello che succede nel Vangelo. In qualche meditazione di questo anno mi pare che mi ero soffermato insieme con voi notando questa cosa, no? Vedevo che effettivamente Gesù quando perdona non sta lì tanto a dire ti perdono di questo, di quello, di quell'altro, poi ti ricordi quell'altra cosa, ma invece perdona e basta, no? Cioè quindi alla donna appunto peccatrice, al paralitico e così via, no? E invece e anche quando, cioè, lui cita i comandamenti, per esempio al giovane ricco, perché lui chiede cosa devo fare per ottenere la vita eterna, ma gliene cita alcuni, fra l'altro, non è che gliene cita tutti e 10, non fa mai il pedante Gesù, no? Non è mai noioso, e dice, vabbè, ti ricordi, no? Onora il padre e la madre, non commettere adulterio, eccetera. E gli dice 4-5 comandamenti. E lui dice, no, ma questi sì, fin dall'inizio. Quindi nel momento in cui gli chiediamo cosa dobbiamo fare, lui ci dà. Ma nel momento in cui non abbiamo fatto, lui perdona e non ci sottolinea, no? Le cose che abbiamo mancato, così anche la parabola del pubblicano che dice abbi pietà di me, peccatore, no? E mi è sembrato di notare anche in questa parabola un altro accenno, un altro esempio di questo tipo, cioè chi è che si ricorda che cosa ha fatto questo figlio quando è andato lontano? Il fratello maggiore che dice, questo tuo figlio, che non è più suo fratello, il quale ha divorato le tue sostanze, anche se in realtà, vabbè, era l'eredità che gli spettava, poi vediamo anche un particolare, con le prostitute. Quindi vedete, il fratello mette l'accento, il fratello che non lo perdona mette l'accento sul tipo di peccato, no? Mi è venuto in mente che anche nei racconti della risurrezione c'è un evangelista che è San Marco, che in sintesi alla fine del suo Vangelo dice è apparso a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, no? Mi sembra di notare che anche in questo dalla quale aveva scacciato 7 demoni, dice proprio così, apparve prima Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Mi sembra di notare anche in questo che i fratelli di Maria Maddalena si ricordano che gli aveva scacciato 7 demoni, ma Gesù, quando la incontra, mica si ricorda. Per lui Maria è Maria. E non è Maria dalla quale avevo scacciato 7 demoni. Ti ricordi Maria, un demonio, l'altro, come erano cattivi, come erano brutti? No, non è. Lei è Maria, no, per lui. Non... E... Comunque, ecco, a me è venuto in mente questo particolare, che il padre invece della parabola non è che gli dice figlio disgraziato, ecco pure, dov'è che hai perso le mie sostanze? Non sottolinea, invece manifesta la sovrabbondanza del suo perdono, perché di fronte al figlio che comunque fa quei gesti di alzarsi, di riflettere su quello che doveva dire, di fare questo viaggio di ritorno penitente, però il padre fa tante azioni, lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò, 5 azioni di sovrabbondanza, di perdono, e poi dopo, molte di più, dicendo tutto quello che dovevano fare per riempirlo di beni che gli manifestassero che veramente lui è tornato a essere figlio, no? Portate qui il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. E così, no? Così, questa è la sovrabbondanza del perdono, è la festa del perdono, è la Pasqua del perdono, no? Potremmo dire con Gesù che accade, e noi possiamo così anche in questi giorni, in questo tempo pasquale, ricordare, no? come tu Gesù perdoni anche quando ti mettono in croce, no? Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno, racconta il Vangelo di San Luca, o come perdoni senza neanche dire ti perdono, quel ladrone, il buon ladrone, no, che gli dice ricordati di me quando sarai in paradiso, dice oggi stesso sarai con me in paradiso. La semplicità del perdono anche lì è essenziale e totale. Cioè Gesù prende quella persona, la mette nel suo cuore e la salva, no? E, ecco, volendo così semplicemente, poi concludiamo la meditazione, dico da questo libro che vi ho citato prima, ecco, io ho imparato per esempio questo fatto, no, che esigere la propria parte di eredità con il padre ancora in vita era considerato dai codici ebraici un atto contro la legge, un abuso, una violenza, un gesto di prepotenza che veniva sanzionato duramente persino con la pena di morte. Nel tono di questa domanda, dammi la parte del patrimonio che mi spetta, nel suo carattere antidialettico si manifesta l'esigenza vitale del figlio di prendere aria, di fare esperienza del mondo, di non restare chiuso nel recinto della famiglia. Ecco, però, esigenza più che legittima, la quale però assume una forma imperativa che non lascia più alcuno spazio alla parola tra il figlio e il padre, non può esserci dialogo, ma solo una rottura irreversibile. Però questo mette in evidenza che nel racconto di San Luca, nel padre della parabola, il papà non si mette dalla parte della legge, no? Non cede, no? Ed è il primo gesto di padre, no? Lascia che il figlio prenda la sua strada, si rende conto che in parte ne ha anche bisogno, anche se il modo è sbagliato, e questo è il primo gesto di padre, di rispetto così di questo segreto del figlio, anche della sua desiderio di autonomia. E poi dopo avviene la seconda parte, dell'essere padre, che è l'accoglierlo come figlio ritrovato. Vi leggo solo questo e poi concludiamo la meditazione. Quando questo autore fa anche, riprende dal famoso quadro di Rembrandt, da tanti è stato commentato, no? E riprende quella notevole differenza delle due mani che stanno sulle sue spalle, sulle spalle del figlio che è lì inginocchiato davanti a lui, una mano maschile, un'altra chiaramente femminile. Le mani del padre sulla schiena del figlio sono mani che non impugnano bastoni o codici, sono le mani aperte del perdono. Il padre si rivela madre nell'atto del perdono perché rinuncia all'esercizio della legge nel nome di un'altra legge che è quella dell'amore per il nome proprio del figlio. E nella mano materna del padre si riflette la grande lezione della maternità. Le mani che accolgono la vita che chiama, che la sottraggono alla sua inermità, all'esperienza dell'assoluto abbandono, sono le mani della madre. E invece sullo sfondo c'è questo fratello con un coltello in mano che medita la vendetta sull'intruso che ha dilapidato la propria parte di eredità e ora con il suo ritorno rischia di rodere anche la sua. Allora noi, concludendo la meditazione, ringraziamo il Signore del dono della sua misericordia. Lo abbiamo riletto nelle parole di Gesù che ci dona il perdono dei peccati, che lo manifesta con questo atteggiamento verso Tommaso, così fa con noi anche sempre in tutti i suoi incontri con noi, nella nostra preghiera, nell'Eucaristia, nell'incontro con i fratelli che ci aiutano, nell'incontro del sacramento del perdono. Allo stesso tempo, facendo l'esperienza del perdono di Gesù, ci proponiamo ancora una volta con la sua grazia, con il suo aiuto, con l'affetto di Maria e il suo sorriso, di essere anche noi persone che perdonano, no? Di non cadere nell'errore di quel servo della parabola, no? Che essendo stato graziato dal padrone poi invece si rivale per cose molto più piccole con coloro che gli dovevano qualcosa, no? Invece noi vorremmo fare, Gesù, la facciamo tante volte, l'esperienza del tuo perdono, ma per poi donarlo generosamente intorno a noi, no? Nella vita quotidiana, nelle mancanze piccole di cui possiamo anche essere vittime nella vita quotidiana e nelle mancanze grandi che ogni tanto si danno. Donaci tu la grazia del perdono, donaci di vivere questa Pasqua del perdono anche nella nostra vita quotidiana, familiare, sociale, di lavoro.